La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Devo chiedere scusa a chi ci ascolta di un errore tecnico, perché La Guardiana del Faro va in onda la domenica mattina alle 9 e poi in replica il sabato successivo alle 11 di sera. E invece per questo sbaglio è andata in onda due volte la stessa puntata. E avevamo anche chiesto agli ascoltatori se qualcuno poteva mandarci dei libri di Michele Mari e ringrazio Luigina Rossi che ci ha mandato una copia di Bestia in Bestia, la prima versione, perché tra poco ne uscirà un'altra riveduta con Einaudi a febbraio. Il suo pacco è molto bello, Luigina, carta velina e poi questo biglietto dove c'è scritto: le mando uno dei libri che ho più amato. Ecco, questo è proprio un bel dono, perché non ha mandato un libro qualunque, ha mandato un libro amato, riletto più volte, un libro importante per lei. E solo chi ama davvero un libro può privarsene in questo modo per darlo a un altro. Quindi grazie Luigina per questo gesto squisito. D'altronde è proprio questo che si spera quando si domanda qualcosa al buio, a qualcuno che non vediamo, che dall'ombra invece di una bastonata esca una manina, ma liscia, pelosa, uguale, e che ti porga il soldatino che cercavi e ti dica: dai, gioca. Claudio Maggesi da Livorno, 57 anni, ha mandato una specie di cosmogonia dei suoi cantanti preferiti del passato e del presente, vivi e morti, con definizioni brevi e argute, salvo uno spazio più vasto dedicato a Gianni Morandi, dove invece esplode il suo sermone immoralista. Maggesi si scatena contro di lui dicendo che lo vede da quando era ragazzino, che non ne può più di quella faccia immota di cartapesta, e lui collodianamente la definisce intostata, così vanamente per bene. Scrive: non gli si conosce un'azione men che proba e irrilevante, così inutilmente corretto, ma che se ne stia a casa, che ci mostri un graffio, una rigatura, una spettinatura di questo manichino rassicurante, che perfino mettendosi in mutande in TV a favore di audience è riuscito a restare quel posticcio bravo ragazzo vestito di tutto punto che continua a mostrarci pure da vecchio. C'hai 70 anni, Morandi, basta, dici qualcosa di vero su di te o sparisci. A parte che trovo mirabile come nella testa di un signore ragionevole ci sia tanto spazio circa la vera natura di Gianni Morandi, e che si arrovelli sul perché non spunti da lui nemmeno un pelo di Mr. Hyde. Però, come nelle barzellette di matti, dove il secondo matto, quello che fa il sano, è più matto del primo, io ti rispondo. E ti rispondo su questo punto perché, altro che rigatura, di recente Morandi, che dai tempi di Germi, quasi 40 anni fa, non faceva un film, al cinema ha fatto una parte da mostro. Chissà se anche lui con qualche sollievo nel liberare finalmente questo suo repressissimo doppio. Qui parliamo spesso di opere e di persone scomparse, a volte da secoli, ma succede che anche le cose nuove scompaiano a volte e rapidamente, come è successo del film di Edoardo Gabrillini, Padroni di casa, prodotto dal First Sun, che dopo un mese è già sparito dalle sale. Ed è un peccato, perché mi aveva richiamato subito il manifesto che rappresentava la scena di un matrimonio. Gli sposi stanno impettiti davanti all'obiettivo con i loro abiti da cerimonia, coi fiori in mano, solo che lo sposo è un lupo e la sposa è un cane. È nota bene che in questo film Gianni Morandi non fa un personaggio di fantasia, un personaggio qualunque, no, fa un personaggio che somiglia a lui, che è lui, cambia soltanto il nome. È un cantante molto famoso che si è ritirato in una bellissima villa sull'Appennino con la moglie, che è Valeria Bruni Tedeschi, enigmatica, bellissima, che non dice una parola in tutto il film ed esprime magnificamente rabbia, delusione, estraneità, dolore. È malata, vive in poltrona a rotelle e ha delle crisi epilettiche molto rischiose se qualcuno non sta lì a soccorrerla. Questo cantante, cioè Gianni Morandi, non Gianni Morandi, ma in verità Gianni Morandi, è un ambientalista e animalista molto attivo e passa la vita ad accudire la moglie con amore e pazienza. Insomma, è un monumento alla virtù. Nella villa arrivano due fratelli artigiani che devono fare dei lavori, due attori molto bravi che sono Elio Germano e Valerio Mastandrea. Attraverso di loro si sviluppa il tema dell'ostilità dei paesani, in questa territorialità esasperata che rispecchia quella degli italiani in molte situazioni verso gli extracomunitari, questa avversione superstiziosa, medievale, verso lo straniero. Poco a poco, dalla falsa bonomia si passa al delitto, tutto volge al male, e l'odio dei paesani contro i forestieri finirà col delitto, anzi con una strage. Ma il culmine della tragedia si tocca quando il cantante, poco prima del concerto, lascia morire la moglie, che ha una crisi epilettica e agonizza ai suoi piedi. E devi vedere con quale impeccabile cinismo Gianni Morandi interpreta il suo personaggio atroce. La donna muore, si contorce e lui, senza increspare questa faccia intostata, come dici tu, continua a mettersi meticolosamente i gemelli ai polsi. E poi, lasciandosi indietro la morta, vola al suo concerto e devi vedere con quale spensieratezza canta a gola spiegata una canzone d'amore dedicata alla donna che ha appena ucciso. Sarai contento, Maggesi. In questo torbido film il tuo Morandi è finalmente un bastardo crudele. Roma, la città di Roma. Ultimamente ne abbiamo parlato male, qualcuno si è arrabbiato, qualcuno ha detto che ci dava ragione. Oh, quando parlo al plurale ci tengo, non è che sono impazzita, non è né un nos maiestatis né un nos humilitatis, è un nos praticitatis, in quanto che parlo sempre di me e di Gloria Guerrera. E su Roma ho ritrovato un mio scritto di gioventù. Per favore non mi prendete la lettera, è una visione, e se dovete confutarmi vi prego non fatelo razionalmente. Spalanca le braccia Mefistofele nel vento notturno. Nel suo mantello un milione di stelle, abbacinanti scritte luminose di compagnie di viaggi. A lui hanno affidato qualsiasi giro del mondo. È sempre la miglior guida. E poi, cosa vale più un'anima? Con pochi soldi la si cambia, la si aggiusta, le si muta di posto, poiché rimane sempre il viaggio il modo più antico di rinascere. Dove? Lo sguardo premuroso del demonio punta al portafoglio palpitante di carte di credito, pronte per l'avventura. Tendiamo il dito, stufo del quotidiano, Bisanzio, Calcutta, Mahagonni, purché sia altrove. Nella carta dell'universo, Mefistofele segna un puntolino tremolante, una piccola croce, Roma. E con qual mezzo? I signori viaggiatori vogliono essere trasportati. Fin lì per forza nel carro di fuoco, ma dopo, durante, nella città, eccoci a Roma. Taxi, moto, autobus, carrozzella, tandem, elicottero, o ad orso di scimmia, o ad orso umano, di donna, di maschio, senza complimenti. I più volgari sollazzi vi saranno offerti, quelli che non trovano posto nel sillabario della perversione. Credete d'avere gusti particolari? Le agghiaccianti complicità di uno sguardo vi suggeriranno vizi cui non avete mai pensato. Roma, ai quadrivi, ha una faccia d'occasione e dice: che vuoi? Che sei venuto a fare? La città è qui per questo, per compiacere il forestiere in tutto ciò che è vicino alle budella. The Sad non ci riguarda. Qui la crudeltà è equamente distribuita e si finge nella bonarietà di un dialetto corrotto, la bonarietà di chi non alzerà un dito per te, la bonarietà dello spogliatore di morti. Insidiosa bonarietà spiona, non contate a Roma sul segreto. Milioni di topi vi guardano. Mefistofele poi ai viaggiatori enumera pregi e difetti. Il venticello è delizioso, gli odori sono buoni, note le architetture, i ristoranti avvelenano, perfino i cinesi, salvezza di ogni dubbia cucina nazionale, sanno a Roma un po' di coda alla vaccinara. Un disservizio tangibile rassicura il turista. Non ha speso invano. Assieme al passato, assieme al vecchio cane dormiente, il Colosseo sotto la luna, Roma fornisce la spezia consolatoria del terzo mondo. Avanti, cammina, non aver paura. Inoltrati nelle gallerie sui tappeti tra i festoni di immondizia. Straniero, sei venuto anche per questo. ad ammirare il prodigioso rifiuto, questo avanzo d'una grandezza tutta da dimostrare. Andrà bene, vedrai, purché non ti aspetti un amore. Quello è proprio impossibile. Accoppiamenti ingiudiziosi, convegni scellerati, loschi abboccamenti quanti ne vuoi. Ove come in Kafka il sesso s'unisce indissolubile all'impiccio ministeriale. Ma non sognarti Roma come un itinerario d'amore, o solo come la ricerca di qualcuno che non c'è. Perché nessuno crede a niente in questa città. Mercanzie a migliaia, ma non si trova la fede. Per questo non vi raccolgono se cadete per terra. Dicono che Tokyo, l'alveare degli alveari, di fronte a Roma sia tenera. E Roma, la città più cinica del mondo. Non vi capiti mai qui di avere un guasto alla macchina o altro guaio stradale. Vedrete attorno a voi facce sinistre e sorridenti, immobili demoni dai volti gonfiati, che si godranno le vostre difficoltà ma non vi aiuteranno. Spettatori abituali della disfatta. Pagando è un'altra cosa. E tutto funzionerà, dolcemente, come all'inferno. Dio non abita a Roma, ci ha mandato un vicario. A Roma trovano chic arrivare tardi. I portinai ti fermano e ti dicono «Dica!» Minaccia lanciata in aria, senza guardarti in faccia. Ma cosa vuole che gli si dica il romano? Il portinaio, l'usciere, il vigilante, protettore di intimità opulente, i re del gioco, guardiani di miserie. «Dica!» Lo sentirete un milione di volte, vi parrà misterioso. È solo la parola d'ordine di un'autorità immaginaria e maliziosa, il grido della guerra imbelle della città ministero, la città burocrata dei partiti, città slabbrata non da fine impero, ma nel ricordo avvinazzato e arrogante d'un impero finito tanti secoli fa. Se amate l'arte, sapete dove andare. Ogni angolo ne offre fino a stancarsi. Ma se è il brivido antropologico che vi spinge, vedete ad essere in strada alle 13, quando gli uffici chiudono, e vedrete la più vasta popolazione impiegata del mondo, il delirio della piccola corruzione, persino nel servirvi il cappuccino al bar. Il cappuccino e il suo commovente fratello, il cornetto. Fate solo la prima colazione, a Roma. Dimenticate gli altri pasti. Che cappuccino e cornetto, quelli sono buoni fino alla mistica elevazione. Sono la comunione con l'essenza di una popolazione che deve pur nascondere qualcosa di umano. La crema dei cornetti al mattino, divina quasi. Una tregua alla farsa chiarcuta che è la vita del sesso, del lavoro, del palato, nella città di Roma. Purché non vi aspettiate l'amore. Qualcuno che venga dal passato vi metta contro un muro e vi dica «Lo vedi? Sono ancora bambino». Il look ideale, sobrio. Non siate stravaganti. Il romano punisce e deride qualsiasi sogno di diversità. Lo sfascio va di pari passo col conformismo. Ma come? Proprio il romano che ha visto tutto? Sì, ma non ha capito niente. Ha preso la ripetizione per il mutamento e qualsiasi vento gli sfugge di sotto il naso, come già visto. Eppure che delizie di cielo, di sole. In maggio poi andremo a Parigi, città più autentica e viva, ma intanto, ora che il freddo è in furia sull'Europa, resteremo sulle terrazze romane, con un solo scopo, godere lo zefiro, abbronzarci, rammentandoci l'equanime consiglio di Henry Miller, all'inferno per la compagnia, in paradiso per il clima. Splendente per chi vi passa, mortale per chi vi resta. Tale è la città di Roma, avvertiamo il viaggiatore. Fellini, il sommo cantore della disfatta, Roma, la dolce vita, Satiricon, tre poemi lividi, senza speranza, dove l'antica suburra e la moderna metropolitana vomitano la stessa maschera atellana. Teatro, la sconfinata pizzeria all'aperto. Una sola dentatura assassina di pomidori e mozzarella, ora che i cristiani non sono più martiri. E leggete Roma se volete picchiare la vostra donna, specialmente per la strada. Troverete un pubblico benevolo e interessato. E tanto che ci siete, sfogatevi come si deve. Picchiate proprio duro. Nessuno interverrà in suo favore, non temete. Anzi, se cercherà di scappare, vi daranno una mano. Ciò la dice lunga sulla sessualità del romano. Schiavo delle madri, delle mogli, delle nonne persino. Il maschio romano agogna a maltrattare la straniera. Ma più lo appaga lo spettacolo, dai tempi del circo e per sempre popolo guardone. Qual è il rapporto di Romani con la storia? Il romano è orgoglioso d'essere romano per motivi che gli sfuggono. I più giovani credono d'essere nella storia perché Alberto Sordi parlava il romanesco al cinema. Qual è il rapporto di Romani con i monumenti? Schifoso e fiero. Ci pisciano sopra, ma se ne vantano. La famiglia ha molta importanza per il romano. È la sua tana, il suo alibi, la copertura per non impegnarsi mai in altro che nella sopravvivenza, la spinta a farsi gli affaracci suoi, che vuol dire avallare qualsiasi ingiustizia. Ma più di ogni denigrazione vale ad apprezzare lo spirito romano il suo più fervido inno, la canzone La società dei magnaccioni, di cui lasciando la città udremo qualche strofa persa nel vento. Sembria che non ci pensiamo più. Ma che ci frega, ma che ci importa? Se l'ostia al vino ci ha messo l'acqua, e noi gli dimo, e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. E noi gli dimo, tanto gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo. Tempi antichi, quasi benevoli, in tanta disarmante trivialità. Ma il romano d'oggi è più sbrigativo, più adatto ai tempi. La canzone d'una volta, non priva di grazia. Facete largo che passiamo noi, li giovanotti desta Roma. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti della Roma bella. Siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorà. Più tardi diventerà, tout court, lassateci passà, siamo romani. Ma che ce frega, ma che ce importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua. È ora di lasciare la città. Creste blu e rosse di nubi sontuose, barocchi sbaffi dorati sui monumenti e sulle vie. E solo ora, mentre già romba l'aereo o fischia il treno, ci accorgiamo che stiamo per partire dal posto più bello del mondo. Mefistofele richiude il mantello, in carrozza, signori. Vi sentite ingannati? Sospettate che vi fosse un altro modo di interpretare Roma? Troppo tardi. Ma voi, perché avete dato retta al diavolo? Dopo questo mio commento, questo sottovolante dell'orrore, devo dare un'informazione fondamentale. Abito a Roma da quando facevo la prima liceo. Qui gli amori, i figli, l'arte, si può dedicare una simile invettiva solo a qualcosa che ci ha fatto veramente innamorare. Roma si presta alla calunnia e mi capirà chi abbia amato una puttana. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ciao Barbara, sono sposato da 31 anni. Vicende alterne della mia vita mi hanno portato con mia moglie ad avere diverse visioni della vita, del lavoro e di quant'altro. E alla fine una situazione economica un po' pesante ha sancito l'epilogo del menage. Moglie molto impegnata, saggia, determinata. Inizio giugno 2012, una mail lasciata in basso nella barra degli strumenti e non chiusa. Unico computer di casa, per cui di dominio comune, compresa la fiducia tra le persone. Apro la mail e trovo delle frasi inequivocabili tra mia moglie ed un certo uomo su Facebook, appena conosciuti. Forse nulla di nuovo. Il nostro rapporto personale è già finito da tempo. Dormiamo in camere separate con un buon feeling sulla crescita dei figli. Una reazione mia incontrollata mi ha portato a fare delle cose pazze, quali entrare regolarmente in questa mail dopo aver recuperato la password. Guardato gli SMS di sfuggita sul telefonino del coniuge negli attimi di disponibilità in sua assenza. Man mano che mia moglie manifestava atteggiamenti di esibita femminilità con uscite sotto mentite spoglie, l'indomani sulla sua mail compariva il resoconto di quanto successo. Quindi io mi sono trovato ad essere spettatore vittima della mia morbosa curiosità. Ad ogni apertura di mail la gelosia era soffocante. Anche il nostro rapporto era già finito. Il vivere sotto lo stesso tetto e vederci in ogni nostro movimento stimola a fondo certi sentimenti. A mettere la cornice a questo quadro, nelle mie ricerche di fatti del passato, ho scoperto una sua relazione di una decina di anni prima e di un'altra in tempi più recenti. Quindi, dopo 31 anni di matrimonio, ho conosciuto mia moglie, persona dedicata alla famiglia. Motore di quel menage che gli uomini, quando ne scoprono l'assenza, vanno in profonda crisi. E se possono, tornano dalla mamma. Barbara, concludo chiedendoti come ci si comporta quando è il vero amore che prende le redini della situazione. Amore vero, intenso e passionale, così come descritto nelle mail del giorno dopo. La relazione che sta vivendo mia moglie può essere classificata clandestina, in quanto anche l'altra persona è nelle stesse condizioni. Nessuno di noi è separato e tutti viviamo con i rispettivi coniugi. Stranamente, con mia moglie è nato un rapporto bellissimo, ma su un binario diverso, famiglia e non più coppia. Concederò a lei, come richiesto sottovoce, una separazione consensuale ed incondizionata. Se lo merita. Non so come andrà a finire. Il senso di rispetto guadagnato da lei negli anni e quanto sta continuando a fare per tutti noi, figli compresi, mi rende succube della vicenda. Sto facendo di tutto pur di avere la sua presenza in casa. Non riesco ad immaginare una vita, anche se sbagliata, senza di lei. Sono disposto ad accettare tutto quello che sta succedendo, pur di vederla serena e continuare ad essere il motore della nostra famiglia. Dammi una tua interpretazione di tutto questo e, se puoi, un consiglio. Vorrei comunque farmene una ragione. Grazie, Barbara. Ti aspetto. A955. Post scriptum. Ho scritto questa mail nel momento in cui mia moglie si è assentata con una scusa. Oh, il tuo pseudonimo, A955, mi ricorda un po' il pianeta B612 da cui parte il piccolo principe dopo aver litigato col suo fiore. La lettera che mi hai scritto è tra le più originali che siano arrivate qui e tra le più squisite nel modo di sentire. C'è qualcosa che la fa adolescente. Tu che ci scrivi appena lei esce per andare dall'amante. Nelle epoche passate si sognava la palla di vetro per sapere tutto di chi amiamo, per vederlo quando non ci vede. Eccola, è internet. E adesso puoi seguire il tradimento in diretta. È ancora più doloroso perché è un non tradimento, in quanto, essendoci tra voi un patto di non aggressione e di indipendenza, di fatto siete separati in casa, tu non hai manco il diritto di arrabbiarti. E infatti non ti arrabbi, soffri. E in segreto ti sei rinnamorato di tua moglie attraverso un altro amore. È bello come tu la capisca adesso e la senta attraverso il sentimento che ha per un altro. Certo, ci sarà in te anche un piacere torturante, amaro e divino nello spiarli senza che loro lo sappiano. C'è anche qualcosa di deliziosamente morboso e tu ne vai ghiotto perché alimenta questa resurrezione dell'amore. Che meraviglia se tu potessi raccontarle tutto. Chissà che non scoppierebbe di nuovo una scintilla tra voi. E invece sei condannato a tacere e questo rende ancora più intensa la tua dedizione silenziosa. E stai provando il lusso costoso della commozione, questa sofferenza mite, questo amore che si può soltanto nascondere. A955, ma cosa vuoi che ti consigli? Tu non hai bisogno di consigli. È per far passare senza parole la tua emozione a lei, per farle sentire ciò che senti. Tu non hai bisogno di consigli perché sei un maestro dell'intermittenza del cuore. Senti, è inutile che ti ricordi che stai facendo una cosa illegale e anzi credo che questo aggiunga ancora più sapore a questa tua strana avventura. Ora mio marito è morto. Io non sono più tanto giovane. Quando ero già separata da lui, ho incontrato un uomo interessante. Me ne sono innamorata. Lui è scapolo e un po' narcisista. Non è geloso, ma io sì. Il problema è che non usciamo mai insieme. Mai, capito? Viene a pranzo da me, intesa fisica buona, ma basta così. Qualche volta mi piacerebbe avere accanto di notte una persona a cui stringere la mano. Non mi piace piangermi addosso. Nonostante tutto mi ritengo fortunata e mi piaccio. Lui non mi chiama mai per nome. Gli ho chiesto perché e non mi ha risposto. Beh, senti, di tutte le restrizioni che subisci dal tuo avarissimo amante, questa è la peggiore. Mi indigna veramente. Ma come? Ti nega il momento di gioia segreta e ripetuta, che è più di un abbraccio, quando senti il tuo nome detto da chi ami. Molte si lagnano perché lui non dice mai ti amo. Ma meno male, quello può essere riserbo e perfino anche soverchio riguardo per l'amore, di non vanificarlo con la ripetizione. Ma non dire il tuo nome, lui ti cancella, ti fa intendere che tu o un'altra, uguale. Il guaio è che tu ti sei consegnata ai suoi modi, tu li hai subiti. Difficile tornare indietro. Magari fagli uno scherzo, chiamalo tu con un altro nome. Ogni volta, Osvaldo, Romeo, Guido, Amedeo, Dudù. Chiamalo con dei nomi diversi e osserva la sua reazione. Se non ne ha, vuol dire che è morto. E allora componilo. Mi raccomando la lapide. Qui giace un egoista. Però io credo che la cosa più semplice sarebbe pigliarlo per un orecchio e sbattero fuori di casa, ma fra 5 minuti, subito. Ho 20 anni e un grande dolore. 2 anni fa ho avuto una storia con un ragazzo più piccolo di me di 4 anni. Lui mi ha fatto capire che cos'è l'amore. Io vivevo nel terrore che i miei genitori lo venissero a sapere e siccome la gente al mio paese non conosce la discrezione, è successo. Hanno saputo tutto. Mi avevano vietato di vederlo, ma tra 1000 ostacoli riuscivamo di tanto in tanto ad incontrarci. Non servivano le parole. Ci tenevamo stretti e io piangevo come una disperata perché avevo paura. Paura che ogni volta fosse l'ultima. Sono passati 8 mesi dalla vera ultima volta e credo di essere sull'orlo della pazzia. Sto soffrendo moltissimo. È un dolore che mi spacca il cuore. Perché fa così male? Romeo e Giulietta. E già, perché fa così male? Questa è la domanda che ci facciamo da che mondo è mondo quando abbiamo la parola. Però lo spiega magnificamente un film che non ricordo benissimo, ma di cui questa frase non scorderò mai. Nicolas Cage, quando dice a Cher di cui sei innamorato, lei è la ragazza del fratello, e lei è ancora bella, Cher, ancora non è murata dentro le plastiche. Insomma, lui la ama, ma lei è fidanzata col fratello e lei vorrebbe ribellarsi alla passione che le ha colte all'improvviso, come la grandine. E allora lui, esasperato, le grida: l'amore non è fatto per mettere tutti d'accordo. L'amore non è fatto per renderci la vita più facile. L'amore ferisce, l'amore uccide. E tu ne hai una prova. Quello che davvero è tremendo è che oggi, in un mondo che passa per troppo permissivo, l'opposizione delle famiglie riesca a essere così efficiente. Cioè, hai ragione a firmarti Romeo e Giulietta, perché anche loro erano 2 ragazzi vittime delle famiglie. Però, qualche centinaio d'anni fa, Nel tuo caso poi c'era l'arma assurda, ma esplosiva, del ricatto dell'età. 4 anni. Una differenza ridicola, ma che, nella mitologia repressiva della famiglia, diventa un ostacolo insormontabile. Fra altri 4 anni, sarete coetanei. Devo immaginare ciò che non racconti, che tu non avresti mai ceduto. Ma lui si è lasciato intimidire. Ti ha rinnegata per non essere più torturato in casa. L'età non lo giustifica. Ha la stessa età di Romeo, l'amante fedele per eccellenza. Se non si ama furiosamente, contro tutti, a 16 anni. Ma cosa si aspetta? Un giorno lo rivedrai, quando magari non te ne importerà più niente. Per i vostri genitori, però, non ci sono scuse. L'ignoranza dei sentimenti, come l'ignoranza della legge, non è un attenuante. È una colpa più grave. Cara Barbara, ho saputo dare un nome, ascoltandoti, al voto che ho fatto un anno fa. Quello di vastità. Ho deciso che sarei stata sola anche come un cane, pur di non accontentarmi più. Sarà vero quello che cantava Gaber per i maschi, che un uomo solo è sempre in buona compagnia. Perché non deve esserlo per me? Allora ho incontrato un uomo di cui sono pazza, ma che non è rimasto altrettanto ammaliato. Lui colleziona francobolli. E io sto cercando di conquistarlo spedendo cartoline da ogni città. Lui ricambia, e a me ogni volta sembra di ricevere un bacio, non un semplice pezzo di carta. Io so che fa ridere. Ma io, a 43 anni, ho scoperto che è meraviglioso non accontentarsi subito, ma godere anche di un desiderio, che se non altro è prova che si è ancora vivi. Poi, se questo filatelico si sveglia e mi bacia davvero, tanto meglio. Ciao, Chiara. Grazie Chiara per questa lettera che ci aspettava dal novembre dell'anno scorso in un angolino della Guardiana del Faro. Però non è di quelle che invecchiano, come non invecchia il tuo filatelico, che è un personaggio del romanzo dell'Ottocento. E questa tua citazione, non so se casuale o non, dell'amato Bergonzoni, il quale dice sempre «ho fatto un voto di vastità». La tua lettera è un pensiero d'amore, è un salto indietro nel tempo, prima che la fretta di oggi distruggesse le parole. Nella tua lettera c'è il gusto della sospensione, c'è l'amore prima dell'amore. Io non ho niente da dirti, ma tu a noi, tanto. Scrive Matteo: voglio provare a sfidare il suo disincanto e raccontarle di Momus. Oh, scusa, a parte che è veramente mirabile come la percezione degli altri ci trasformi sempre in qualcos'altro. Ma quale disincanto, Matteo? Io sono una romantica forsennata. Tutti noi diamo luogo, evidentemente, a tanti equivoci. Comunque, continuo la tua lettera. Momus. Sì, Momus, alla francese, con l'accento sull'ultima sillaba e la S ben scandita e un po' sibilante. Momus è una donna, incontrata per caso, che ha dato un senso ai miei errori. è successo come in quella pubblicità dove una balena cade dal cielo sulla testa di un tizio che sta in cima a un palazzo. Si può forse ignorare un evento del genere? Mumus è la balena caduta sulla mia testa. Mi ha riconosciuto subito, mi ha voluto, mi ha afferrato per i capelli e mi ha fatto una proposta che posso solo accettare, altrimenti sarei uno sciocco. Mumus è la donna che non chiede nulla e che per questo avrà tutto. Tanto poco che sia, il mio tutto sarà per lei. Perché Mumus? Perché è una combinazione delle iniziali del suo nome con l'aggiunta di una S in modo che sappia di bohème. E il nonno di Mumus era un cantante d'opera. E io sono musicista, permeato di musica fin nel midollo. Non le sto scrivendo perché lei legga la lettera alla guardiana del faro. Ma certo invece che la leggo, per una volta che una balena cade in testa a qualcuno e questo qualcuno esulta e accoglie il dono, per una volta che la passione felicemente rompe, oltretutto in un'estasi musicale, e per una volta che possiamo fare i voyeur di una cosa bella, beh, figurati che ce lo perdiamo. Tu ci hai chiamati a testimoni del momento incontaminato e leggendo sentivo quel piacere della profanazione angelica di quando cammini per primo sulla neve appena caduta. Grazie Matteo. La guardiana del faro. Charmanca, charlatanca. I giovani, giovani, giovani. Non si parla che di giovani. Giovani qua, giovani là, come Figaro nel barbiere. Li nominiamo sempre, tutti li evocano. Dopo la parola tasse, credo sia il termine più pronunciato in lingua italiana. Solo che non si vedono mai. Ogni tanto nei talk show sono fantasmaticamente portati lì come a dimostrazione che esistano, in mostra come l'ultimo dei Moicani. Di rado sono presenti. E quando vengono descritti come muti. Noi ne abbiamo acchiappato uno al volo, uno molto giovane, e lo abbiamo pregato di venire a parlare al faro. Ha 16 anni, si chiama Lorenzo Ceccioni, frequenta la prima liceo, abita a Roma, è figlio di amici miei. L'ho conosciuto che era piccolino e timido, e poi l'ho ritrovato adesso che sa raccontare molto bene, perché quello che ci succede è meno importante di come lo vediamo. Io da bambina ho fatto ancora in tempo a carpire un brandello di quello che fu il racconto orale. Mi ricordo i racconti di chi aveva viaggiato e raccontava le sue avventure e faceva stupire noi immobili. Alcuni erano dei veri affabulatori, altri no. Però tutto era stato visto da quegli occhi. C'era l'interpretazione. Lorenzo ha lavorato come volontario alle Olimpiadi di Londra e non ci farà un racconto storico. Ci racconterà le Olimpiadi di Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao. Allora, ci racconti un po' che cosa facevi lì, come sei capitato e come hai visto, ci racconti le tue Olimpiadi. Siamo arrivati lì, saremmo stati 70 volontari, ci hanno spiegato che non c'era un ruolo fisso per ognuno di noi, ma eravamo tutti incaricati di fare tutto, quindi eravamo tutti dei factotum. E c'erano 500 cose da fare, naturalmente, essendo Casa Italia il fulcro d'Italia alle Olimpiadi, c'era chi doveva stare agli ascensori, chi doveva stare ai desk di accoglienza e tutte queste cose qui. Quindi ogni giorno praticamente ti toccava qualcosa di diverso, per tempi abbastanza lunghi. Quindi abbiamo visto veramente tante cose. A parte gli atleti, che tutte le persone che entrano a Casa Italia dicono «Ma dormono qui gli atleti?» Dici «No, gli atleti dormono dentro il villaggio olimpico dove ci sono i posti per dormire, qui ci sono soltanto uffici, redazioni, computer e gente del CONI». Poi naturalmente tutte le conferenze stampa, tutte le feste a fine di qualche oro che abbiamo vinto. Ho visto Casa Italia come non l'ha vista nessun altro, nel senso che noi abbiamo visto Casa Italia dopo che veniva chiusa e quindi lì c'erano veramente tutte le persone che c'erano state in quel momento che si rilassavano e c'erano anche tutti gli atleti che tornavano dentro Casa Italia dopo che se ne erano andati tutti perché potevano stare tranquilli, avevano il wifi gratuito ad esempio, potevano comunicare alle loro famiglie che non erano lì. Poi lì, capito, ci sono tutte queste persone importanti per cui nessuno ti ascolta. Nessuno, tu non parli. Praticamente sei un manichino, sei fermo lì e tu l'unica cosa che gli fai è chiamare l'ascensore, portarli su e giù oppure accompagnarli in quella o quell'altra stanza perché sennò si perdono da soli. Anche questi naturalmente non è che gliene freghi qualcosa del fatto che tu sei lì. Parlano. E parlando, diciamo, naturalmente esprimono le loro opinioni con amici. Quello è dopato, si vede lontano un miglio che è dopato. Magari non lo sa neanche, ma è dopato, si vede lontano un miglio. Poi quando vedevano un atleta, tu vedevi questa gente che stringeva le mani, poi ad esempio Mellifo, si faceva le fotografie, Mellifo, così, poi si arrivano sulla scienza, ma chi cazzo era quello? Gente che, diciamo, è preposta a conoscere questo genere di persone. E quindi tu rimanevi lì e dicevi, ma così. E quindi tu sei andato nella condizione ideale per essere una spia, in quanto che quando tu sei lì preposto ad un servizio, loro immaginano che tu sia assente praticamente. Sì, di solito negli spy movie sei un fantasma, questo, no? Ecco. Negli spy movie di solito tu vai a fare, non vai a fare il ruolo di punta, cioè vai a fare quel ruolo piccolo che nessuno si nota se hai sostituito un uomo, però è il ruolo in cui tu vedi tutto. Ecco, facendo il factotum ho fatto tutti i ruoli che potrebbero venire in mente per uno spy movie, cioè ho fatto la pulizia, ho fatto il controllo ascensori, ho fatto il buttafuori, cioè ho fatto quello che controllava linea, ho fatto di tutto. Però la cosa positiva è che quando c'erano dei biglietti in più, così, li davano a chi era lì. Quindi io sono andato a vedere un mucchio di gare. Io ho visto la regina, il principe Harry, che era andato a vedere la finale di beach volley femminile, e li ho visti proprio, eravamo sugli stessi spalti. La regina l'ho vista alla cerimonia d'apertura e a quella di chiusura, c'erano tutti i reali, no? E la cerimonia d'apertura, vabbè, a parte il fatto che è venuta giù, hanno fatto quella cosa con 007 che veniva giù dall'elicottero, capito? Erano tutti gasatissimi perché era la terza volta di Londra alle Olimpiadi, e poi è l'unico posto dove fanno le Olimpiadi in cui prima di tutti, prima di signore e signori, la prima cosa che salutano, le prime persone che salutano sono Your Royal Highnesses, cioè loro, le loro maestà. E lei ha dichiarato come costume, perché sia mai è sempre costume, aperte le Olimpiadi. È stato un momento magico, a parte il fatto che mi aspettavo, cioè, di vederla da lontano, e così invece era proprio lì, a 50 metri, la vedevo. E com'è, una vecchina tutti. Carina? Ma lei è una vecchina, ma poi, capito, sembrava quasi stanca, no? Finché non è arrivata lì, proprio come se si fosse lanciata da un elicottero, proprio stanca, sembrava stanca. È arrivata lì, ha guardato un attimo tutti, ha visto dove si trovava, ha visto lo stadio com'era, allora si è tipo ritirata su d'un tratto. Allora ha detto, dichiaro aperte queste Olimpiadi, perché ha visto che effettivamente era calato il silenzio più totale, si sentivano soltanto le macchine fotografiche a fare così, quel rumore lì, no? Tutti i flash dappertutto, però il silenzio per il resto totale, tutti gli atleti tutti fermi, finché lei non ha detto, dichiaro aperte le Olimpiadi, quindi l'etichetta c'era comunque, no? Dichiaro aperte le Olimpiadi, allora è ripartito il casino più totale. Lorenzo e le Olimpiadi, con che spirito sei andato, con che spirito poi, come sei stato? Io sono andato con lo spirito di non vedere assolutamente nessuna gara. Partivo, era una funzione, era una funzione, avrei lavorato, e quando non lavoravo di certo non avevo il tempo di andarmi a cercare, né tanto meno i soldi poi comunque, di andarmi a cercare i biglietti per queste gare pazzesche che per me sono irraggiungibili. Capisci che i biglietti per le Olimpiadi sono la cosa che mai raggiungerai, cioè sono più del Super Bowl, no? E quindi sono andato lì dicendo, vabbè, mi divertirò, vedrò Londra Olimpica, che comunque è uno spettacolo a sé stante. Poi sono arrivato lì e invece ho visto tantissime gare, ho visto la scherma, ho visto piuttosto che il beach volley, piuttosto che la pallanuoto, il nuoto, i 100 metri, cioè, ho visto veramente tante gare. E la scherma cosa hai visto? Cosa ti è rimasto? Ho visto, beh, loro. Loro, dai, le no, tre, magari. Le tre, le grandi, erano Valentina Vezzali, la Irrigo e la Di Francisco. Ognuna aveva una sua caratteristica, no? La Vezzali l'abbiamo sempre chiamata il Cobra, ma anche prima di andare alle Olimpiadi, da tutte le Olimpiadi che ha fatto, è sempre stata chiamata il Cobra, perché lei è una che si muove lentamente e poi nel momento in cui tu ti avvicini, bam, colpisce immediatamente, tu non ti rendi conto da dove sia uscita, no? E tutti puntavano su lei, perché, cioè, le altre non l'aveva mai sentita nessuno, era, cioè... Poi la Vezzali è passata in secondo piano, perché sono arrivate queste due ragazze, praticamente, rispetto poi a lei, e c'è stata questa cosa pazzesca, che è stata lo scontro tra di noi, cioè Vezzali, Enrico, questi qua che si massacrano a vicenda. Poi abbiamo viste a squadre che combattevano insieme, capito? Cioè, quella è la sportività, nel senso che tu, finché stai correndo per il singolo, anche se sei della stessa nazione, combattiamo, perché questo è il ruolo, no? Poi nel momento in cui siamo noi contro, non possiamo portare rancore perché tu hai vinto, io ho preso meno, quindi, non ho vinto. Quindi sono unite e hanno fatto questa cosa bestiale che è stata il match a squadre. Vuoi dirmi qualcosa per chiudere, soltanto di tuo, su qualche atleta che hai visto? Guarda, un atleta in positivo e in negativo, eh? Sì, la Josefa Eden, bravissima, che fa il kayak. Lei ha fatto più Olimpiadi di qualsiasi altro atleta italiano che abbiamo noi. Se le ha fatte tutte, tant'è che adesso la cosa pazzesca è che lei andava contro, in queste Olimpiadi gareggiava, gli è successa questa cosa pazzesca, negli spogliatoi si è avvicinata una delle atlete con cui lei doveva gareggiare, gli si è avvicinata e gli ha detto, la saluta tanto mia madre, perché lei aveva gareggiato contro la madre. Le generazioni passano e lei no. Qui